Blu Radio Veneto. Su Info, Salute e Società. Punto Radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 9. So Info, la rubrica che ogni settimana vi accompagna con informazioni e consigli pratici sui temi della salute attraverso lo sguardo plurale di tutti coloro che ne sono coinvolti, conclude questo primo mese dedicato al tema della maternità affrontando il tema dell'affido. La maternità e la genitorialità infatti talvolta vanno oltre la biologia e trovano compimento percorrendo strade diverse, altrettanto importanti e coinvolgenti. L'affido è un progetto di accoglienza predisposto dai servizi dell'USL a favore di bambini e ragazzi la cui famiglia si trova in momentanea difficoltà. Prevede l'accoglienza in una famiglia affidataria che rappresenta una risorsa ed un contesto relazionale positivo non istituzionalizzante. Il valore dell'affido familiare è pensare che i legami tra il bambino o la bambina e la famiglia d'origine e tra questi e il loro territorio di appartenenza possano essere coltivati, sostenuti e sviluppati attraverso l'esperienza con un'altra famiglia, capace di accogliere non solo il bimbo, ma anche la sua storia, il suo nucleo familiare, le sue relazioni. Oltre all'affido residenziale, per tutta la giornata, ci sono forme parziali di affido, che prevedono un sostegno limitato alle sole ore diurne o ad alcuni giorni della settimana in relazione ai bisogni e alle necessità dei bambini. In ogni caso l'affido non può superare la durata di 2 anni. Trovare persone e famiglie disponibili all'affido familiare è una priorità per le aziende ULS della provincia di Treviso. Non sono necessarie competenze particolari. Ciò che si richiede sono invece la disponibilità a ricevere una formazione idonea e quella a collaborare con i servizi dell'USL 9 per la realizzazione di un progetto in favore dei bambini. È indispensabile che le famiglie e le persone singole siano disposte ad aprire la propria casa e la propria vita ad un bambino o bambina, ragazzo o ragazza, per dargli la possibilità di crescere in un ambiente familiare sereno, nel rispetto della sua storia individuale e familiare. Qual è dunque il primo passo da fare se si è interessati a valutare questa strada? Rivolgersi al consultorio distrettuale, ai servizi per l'età evolutiva o all'ufficio affidi in via Dalviano a Treviso, all'interno dell'area materno-infantile, così da poter porre domande, chiedere approfondimenti o comunicare la propria disponibilità. Periodicamente poi l'USL 9 organizza corsi di formazione e sensibilizzazione riguardo all'affido familiare. Per maggiori informazioni www.uls.tv.it/affido-familiare. Su Info, Salute e Società. Punto Radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 9. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.